Marino Serri è morto a Frutondelli, ma gli occhi dei fratelli si son tenuti asciutti. Compagni, sia ben chiaro che questo sangue amaro versato a Reggio Emilia è sangue di noi tutti, sangue del nostro sangue, nervi dei nostri nervi, come fu quello dei fratelli Cervi. Il solo vero amico che abbiamo al fianco adesso è sempre quello stesso che fu con noi in montagna, ed il nemico attuale è sempre ancora uguale a quel che combattemmo sui nostri monti in Spagna. Nel 1962 è in carica il quarto governo Fanfani di centro-sinistra, con l'astensione dei socialisti, l'appoggio della Fiat e il benestare di Kennedy, presidente degli USA. Fino al 1962 a Torino, da lungo tempo, non si hanno insorgenze sociali. Dagli anni 50 la situazione sociale a Torino era stata normalizzata ed era stata sancita la pace sociale negli stabilimenti torinesi. Nel resoconto del 1955 dell'amministrazione Fiat, Valletta, allora presidente e amministratore delegato, poteva dichiarare definitivamente sconfitta la componente conflittuale all'interno della Fiat e poteva dichiarare pacificata la situazione in fabbrica. Per lungo tempo, per almeno 7 anni a Torino, la conflittualità sociale avviene solo alla periferia del sistema produttivo, nelle piccole e medie industrie torinesi, mentre la Fiat è un gigante muto, non esprime conflitto. Ed ora ascoltiamoci una canzone del canzoniere delle Lame, Cara moglie. Cara moglie, stasera ti prego, di' a mio figlio che vada a dormire, perché le cose che io ho da dire non sono cose che deve sentire. Proprio stamane, là sul lavoro, con il sorriso del capo sezione, ci è arrivata la liquidazione. Ci han licenziati senza pietà, è la ragione perché ho scioperato per la difesa dei nostri diritti, per la difesa del mio sindacato, per il lavoro e per la libertà. Quando la lotta è di tutti e per tutti, il tuo padrone, lo sai, cederà. Se invece vince perché i crumiri gli dan la forza che lui non ha. Questo si è visto davanti ai cancelli, noi si chiamava i compagni alla lotta, ma del padrone ho un cenno, una mossa, un dopo l'altro cominciano a entrar. Oh cara moglie, dovevi vederli venire avanti curvati e piegati, e noi a gridare crumiri venduti, e loro dentro senza parlar. Quei poveretti facevano pena, ma dietro a loro di là sul portone rideva bieco il porco padrone, li ho maledetti senza pietà. Oh cara moglie, io prima ho sbagliato, di a mio figlio che venga a sentire, che ha da capire che cosa vuol dire lottare per la libertà. Che ha da capire che cosa vuol dire lottare per la libertà. A Torino, in gennaio, partono gli scioperi alla Lancia e alla Michelin. La città è attraversata da cortei. Il 2 febbraio, 500 operai della Fiat Stura scioperano contro l'aumento dei ritmi di lavoro. È la prima mobilitazione di operai Fiat dopo le sconfitte e licenziamenti che si sono susseguiti negli anni 50. Nel 1962 scade il contratto dei metalmeccanici. Le prime giornate di sciopero a giugno, indette dai sindacati confederali, hanno successo. Il 13 giugno partecipano migliaia di operai, ma non quelli della Fiat. Il 19 giugno scioperano anche 7.000 operai della Fiat e il 23 ben 60.000 operai Fiat scioperano compatti. Poi, all'inizio di luglio, la situazione si scalda. Due successivi scioperi hanno una imprevista e straordinaria riuscita. Un successo inatteso da parte degli stessi organizzatori degli scioperi. Quindi ascoltiamoci una canzone adatta alla situazione, la ballata della Fiat. Signor padrone, questa volta per te è andata proprio male, siamo stanchi di aspettare che tu ci faccia ammazzare. Sì, continua a lavorare e sì, sindacati vengono a dire che bisogna ragionare, ma di lottare non ne parla mai. E signore padrone, ci siamo svegliati e questa volta si dà battaglia, e questa volta come lottare lo decidiamo soltanto noi. Vedi il crumiro che se la squaglia, senti il silenzio nelle officine, forse domani solo il rumore della mitraglia tu sentirai. E signor padrone, questa volta per te è andata proprio male, d'ora in poi se vuoi trattare dovrà rivolgerti soltanto a noi, e questa volta non ci compri con le 5 lire dell'aumento, se offri 10 vogliamo 100. Se offri 100.000 noi vogliamo. Il signore padrone, non ci hai fregati con le invenzioni, con i sindacati, i tuoi progetti sono sfumati, perché si lotta contro di te e le qualifiche, le categorie noi le vogliamo tutte abolite, le divisioni sono finite, alla catena siamo tutti uguali. volta. Ormai a lottare sei imparato, a Mirafiori sei dimostrato. Tutta l'Italia lo dimostrerà. E quando siamo scesi in piazza, tu ti aspettavi un funerale, ma è andata proprio male. Per chi voleva farci addormentare, ne abbiamo visti davvero tanti, di manganelli, scudi romani, però si è visto anche tante mani che al San Pietrino cominciano a andare, tutta Torino proletaria alla violenza della questura risponde ora senza paura, la lotta dura si vuole far, e noi burocrati e ai padroni cosa vogliamo? Vogliamo tutto, lotta continua a Mirafiori e il comunismo trionferà, e noi burocrati e ai padroni cosa vogliamo? Vogliamo tutto, lotta continua in fabbrica e fuori e il comunismo trionferà. Il 7 luglio 1962 la FIOM e la FIM cittadina proclamano uno sciopero di tutti i metalmeccanici torinesi a sostegno della Fiat e per tentare la spallata finale per il rinnovo del contratto. Lo sciopero riesce in pieno. All'esterno di Mirafiori e di altre fabbriche vi furono violenti scontri dopo che i picchetti bloccano le entrate fin dalle 4 del mattino. I crumiri vennero accolti con fischi, insulti, pomodori e patate marce. Alle automobili che tentarono di passare vengono rotti gli specchietti e i tergicristalli. Alcune vengono rovesciate e alcuni dirigenti vennero picchiati, senza che la polizia riuscisse a controllare la situazione. Il capo del personale Pistamiglio si presenta su una 600 per non farsi riconoscere, invece viene riconosciuto e l'auto viene rovesciata. Nel tentativo di fuggire, Pistamiglio rimane con un piede sotto la 600. Nel corso della mattinata si sparge la voce che la UIL e la SIDA, il sindacato creato dal padrone, avevano raggiunto un accordo separato con la direzione Fiat nella notte. I tre giorni di sciopero diventano l'occasione per protestare contro quel tradimento. Nel pomeriggio, dalla Fiat Ricambi, dalla OSA e dalla Spastura si forma un corteo di 500-600 operai che si dirige verso Piazza Statuto, dove c'è la sede della UIL, e lungo il percorso si ingrossa sempre più. Circa 7.000 persone si ritrovano in Piazza Statuto. La piazza è presidiata da un ingente schieramento di polizia. Arriverà anche il famigerato Battaglione Padova. Per tre giorni la piazza fu teatro di una straordinaria serie di scontri fra dimostranti e polizia. I primi, armati di fionde, bastoni e catene, ruppero vetrine e finestre, eressero barricate, lanciarono lattine di benzina in fiamme contro le forze dell'ordine e caricarono più volte i cordoni della polizia, che rispose caricando la folla con le jeep, soffocando la piazza con i gas lacrimogeni e picchiando i dimostranti con i calci dei fucili. Gli scontri si protrassero fino a tarda sera, sia sabato 7 che lunedì 9. Ascoltiamoci ora un'altra canzone che fu spesso cantata nelle manifestazioni degli anni 70, La violenza. È cominciata di nuovo la caccia alle streghe. I padroni, il governo, la stampa, la televisione. In ogni scontento si vede uno sporco cinese. Uniamoci tutti a difendere le istituzioni. Tante facce sorridenti, le compagne 15 anni, gli operai con gli studenti, il potere agli operai. al sistema del padrone, sempre uniti vinceremo. Viva la rivoluzione, quando poi le camionette hanno fatto i caroselli, i compagni hanno impugnato i bastoni dei cartelli ed ho visto le auto blindo rovesciate e poi bruciate, tanti e tanti poliziotti con le teste fracassate. Oggi ho visto nel corteo tante facce sorridenti, le compagne 15 anni, gli operai con gli studenti, il potere agli operai, dal sistema del padrone, sempre uniti vinceremo. Viva la rivoluzione, quando poi le camionette hanno fatto i caroselli, i compagni hanno impugnato i bastoni dei cartelli ed ho visto le auto blindo rovesciate poi bruciate, tanti e tanti poliziotti con le teste fracassate. La violenza, la violenza, la violenza, la rivolta, chi è esitato questa volta lotterà con noi domani. La violenza, la violenza, la violenza, la rivolta, chi è esitato questa volta lotterà con noi domani. La violenza, la violenza, la violenza, la rivolta, chi è esitato questa volta lotterà con noi domani. La violenza, la violenza, la violenza, la rivolta, chi è esitato questa volta lotterà con noi domani. La violenza, la violenza, la violenza, la rivolta, chi è esitato questa volta. La sera di lunedì, verso le 22, un folto gruppo di dimostranti sorprende le guardie all'ingresso del giornale La Gazzetta del Popolo. Cadono in frantumi i vetri delle finestre. La polizia poi, dopo aver circondato tutta l'area di Piazza Statuto, inizia il rastrellamento. Dirigenti del PC e della CGIL, tra i quali Pajetta e Garavini, cercarono di convincere i manifestanti a disperdersi, ma senza successo. 1215 dimostranti e passanti furono fermati, 90 arrestati e rinviati a giudizio per direttissima, un centinaio furono denunciati a piede libero. 169 furono i feriti tra le forze dell'ordine, centinaia quelli tra i dimostranti, ma solo 9 si presentarono in ospedale perché altrimenti sarebbero stati arrestati. Poco prima delle ferie estive, la Fiat spedisce 84 lettere di licenziamento, soprattutto a attivisti sindacali della CGIL, della CISL, ma anche della UIL, accusati di aver partecipato alle violenze di luglio. Radio Onda Rossa di Roma organizzò uno spettacolo teatrale a 50 anni dalla rivolta di Piazza Statuto, dal titolo Radio Teatro, la rivolta di Piazza Statuto. Ascoltiamone una parte. Non è mai avvenuto, nella storia del movimento operaio, nemmeno nei periodi di più vile opportunismo di partiti e sindacati, che gli operai che insorgono contro le sopraffazioni del capitale e dei suoi lacchè e che ricorrendo all'arma dello sciopero non dimenticano che questo è appunto un'arma di guerra sociale, fossero bollati come teppisti e come provocatori da quelli che sconciamente pretendono di rappresentarli. I fatti di Piazza Statuto. I teppisti di Piazza Statuto. Scontri gravissimi a Piazza Statuto. Sì, ma che è successo davvero a Piazza Statuto? Una provocazione della destra contro il movimento operaio. Un tentativo di sovversione comunista contro lo Stato democratico, un tentativo rivoluzionario anticapitalistico. Sì, ma chi erano i manifestanti coinvolti negli scontri? Dico, chi erano? Erano sovversivi. E ci chiamano teppisti? Teppisti. E ci dicono provocatori? Terroni. Ma noi siamo lavoratori. Elementi incontrollati. Che Togliatti non amiamo. Rivoluzionari. Non vogliamo il centrosinistra. Preferiamo l'idea socialista. Cittadini estranei. Alle tresche con i prechi, col governo, il capitale. Fascisti. Su compagni in fitta schiera,

Quando senti che sei impotente in fabbrica, trovi una forma di utilizzazione della lotta anche all'esterno. Macchine rovesciate al capo del personale Pistamiglio, al dirigente di Mirafiori Valleguar, al capo del personale del Lingotto e di altri 3 o 4 dirigenti. Picchiate il dirigente della Fiat Avio, Anfossi, e il dirigente del Lingotto Casertano. Arriva una 500 che voleva forzare il picchetto per entrare dentro e ovviamente il picchetto resisteva, non faceva passare. Sarebbe finito tutto lì se primo l'autista della macchina non tentava di forzare il picchetto, secondo se il compagno dell'apparato Walter Zanoni, che era vicino a me, lui guidava la macchina, io facevo lo speaker, non avesse riconosciuto chi c'era dentro la macchina. Ma quel bastardo lì è Pistamiglio, quello che mi ha licenziato! Ho preso subito il megafono: compagni, operai, qui su questa macchina abbiamo il dottor Pistamiglio, l'affamatore di operai, il famigerato licenziatore! I Quaderni Rossi, la rivista operaista più radicale in cui scrivevano Raniero Panzieri, Mario Tronti, Toni Negri e Aso Rosa, prende le distanze dalla violenza di piazza e, pur invitando a riflettere sulla composizione sociale dei dimostranti, giudicano gli scontri di piazza una squallida degenerazione di una manifestazione di protesta operaia. Poi, in Cronache dei Quaderni Rossi, uscito nel settembre 1962, scrivevano: «Rifiutiamo la generalizzazione delle accuse di Teppa e fascisti al soldo della Fiat dei manifestanti di Piazza Statuto». Ed ancora: «I giovani che hanno partecipato ai fatti di Piazza Statuto vengono da queste situazioni, che non sono di disoccupazione, che tutti o quasi sono risultati operai, in prevalenza di piccole e medie fabbriche e poi delle grandi, o artigiani o edili, ma spesso di sovraoccupazione. Non sono dei delinquenti, che salvo poche eccezioni essi sono risultati incensurati. Che a loro si siano aggiunti elementi di destra provocatori e di professione non può in alcun modo giustificare un'accusa indiscriminata di teppismo. La carica di rabbia e di aggressività che questi giovani hanno dimostrato è causata da esperienze di lavoro e di vita che li isolano e non li aiutano a sentirsi partecipi di una più vasta coscienza di classe. Questa carica non ha trovato altro modo di esplicazione che nella rabbia contro gli elementi più appariscenti, più ovvi e generici del potere. La distruzione degli oggetti, del bene pubblico e la rivolta contro quello che è ancora per loro il primo simbolo dello Stato e del potere, la polizia. Questo crea una frattura all'interno della rivista. Da una parte Panzieri, che vuole continuare il lavoro di analisi e lo considera predominante rispetto al lavoro direttamente politico. Dall'altro Tronti, Negri e Aso Rosa, che vogliono arrivare immediatamente a soluzioni politiche e organizzative. Fu l'inizio di un lungo processo che porterà nel 1964 questi ultimi a staccarsi da Quaderni Rossi per dar vita alla rivista Classe Operaia. Ed ora un altro pezzo dello spettacolo teatrale Radio Teatro, La rivolta di Piazza Statuto. Per me i fatti di Piazza Statuto furono il primo segno del risveglio. Per la prima volta la base rivoluzionaria scavalcò apertamente il partito e mandò a fanculo i vecchi tromboni. L'unità gridava teppisti, fascisti, e quello, per molti compagni, fu il crollo delle ultime illusioni di un ravvedimento rivoluzionario del PC. Io ero giovane e non avevo la capacità di fare un'analisi estesa, ma per quel poco che potevo vedere e verificare, la versione del partito era che Piazza Statuto è una provocazione per rompere l'unità sindacale. Ma com'è possibile? Ma com'è possibile fare questo discorso? Ma non era proprio quello che stava accadendo, il modo più serio di fare l'unità sindacale. Lo volevano gli operai e i comunisti di base, perché la rabbia era indescrivibile. Il partito aveva già commesso degli sbagli, già dal 53, quando aveva licenziato i famosi di Stella Rossa, quando parlava di crisi del capitalismo mentre eravamo in pieno boom di sviluppo. La Fiat, mentre assumeva migliaia di altre persone, aveva licenziato tutti i compagni, gli attivisti, quelli del 45, tutti quelli che lavoravano alla Grandi Motori e così via. La delusione più grossa l'avemmo quell'ultimo pomeriggio. Le carogne fasciste del battiglione Padavo avevano arrestato uno dei nostri più cari compagni. Si era rimasti in pochi, lui si era buttato avanti da solo contro i plotoni che avanzavano compatti. Lo chiusero in mezzo pestandolo selvaggiamente. Cercammo di strapparlo ai poliziotti, ma erano in troppi, ci ritirammo tutti pesti. Poi la sera andammo alla festa dell'unità e cercammo di fare una colletta. I dirigenti ci aggredirono. Ricordo quella scena con rabbia e con dolore. C'era la tavolata solita di capoccia, le bottiglie di Barbera, gli agnolotti, i salamini caldi, la classica tavola piemontese a cui si riduceva ormai tutta la prassi rivoluzionaria di un partito che aveva innalzato un tempo su tutta la merda fascista e borghese la bandiera rossa della speranza e della rivolta. Vi siete comportati da teppisti, da fascisti! Fu la rottura. Se quelli che si sono battuti contro la polizia sono fascisti, allora siamo fascisti pure noi. Prendemmo il tavolo con salamini, vino e bagnacauda e lo sbattemmo in faccia ai dirigenti. Quella sera, per la prima volta, fra compagni, finì con altre botte. Il movimento di Piazza Statuto è venuto fuori spontaneo. È venuto fuori dalla rabbia mischiata all'euforia dello sciopero. La classe operaia si è liberata di un peso che aveva addosso, voleva dirsi: ecco, ci siamo ritrovati. Di lì si è iniziato. Io credo in queste cose e sono pronto a rifarle anche domani mattina. La rivolta di Piazza Statuto ha visto protagonisti giovani operai, in massima parte immigrati meridionali. Sono quindi assurde le spiegazioni basate sul teppismo. Per la maggior parte non fanno parte di nessuna organizzazione, né di destra né di sinistra. Non sono iscritti ai sindacati e ai partiti, perché i sindacati e i partiti non vogliono capire la loro spinta rivoluzionaria. Sono sfruttati e isolati e hanno alle spalle esperienze durissime. Anche Santa Natale Nicola partecipò alla rivolta di Piazza Statuto. A quel tempo aveva 25 anni ed era un operaio chimico. Nel suo libro autobiografico L'evasione impossibile parla anche di Piazza Statuto. Ecco il suo racconto. Poi vennero i fatti di Piazza Statuto. Fu il primo segno di risveglio. Nell'estate del 1962, per la prima volta, la base rivoluzionaria scavalcò apertamente il partito, mandò a fanculo i vecchi tromboni. La battaglia durò 3 giorni e l'unità ci chiamò teppisti, allineandosi con i borghesi. Fu il crollo per molti compagni delle ultime illusioni di un ravvedimento rivoluzionario del PC. Mi ricordo di Paietta, era con noi, non sapeva cosa fare, il grande dirigente non era più davanti a una folla entusiasta, ma in mezzo a gente esasperata che gli stava mangiando il piedistallo eretto in tanti anni sul suo passato di combattente. Quando gli arrivò una pietrata, allora si risvegliò, mettendosi a sbraitare contro i padroni e gli sbirri, spingendoci all'attacco. Il suo passato di partigiano riemergeva dall'inconscio. Poi, a mente fredda, il giorno dopo sull'unità ci chiamò fascisti. Demmo tante botte in quei giorni e ne prendemmo. Alcuni compagni del gruppo, come Piero il tranviere, erano addirittura arrivati con le pistole. Mi ricordo bene di Adriano in quei giorni, si batteva contro 3 o 4 poliziotti per volta. La delusione più grossa l'avemmo l'ultimo pomeriggio. La polizia, quelle carogne fasciste del battaglione Padova, avevano arrestato uno dei nostri più cari compagni della FIGC, Garino. Si era rimasti in pochi, eravamo alla fine. Durante una delle ultime cariche, Garino si era buttato avanti da solo contro i plotoni che avanzavano compatti. Lo chiusero in mezzo, pestandolo selvaggiamente. Cercammo di strapparlo ai poliziotti, ma erano in troppi e ci ritirammo tutti pesti. Ed ora l'ultimo pezzo dello spettacolo teatrale Radio Teatro La rivolta di Piazza Statuto. Lunedì 9 luglio lo sciopero è totale e i picchetti sono quasi inutili perché di operai che si presentano a lavorare non ce n'è traccia. Alle 11 in Piazza Statuto ci sono migliaia di persone e molte stanno già fischiando, urlando e lanciando pietre. Le prime cariche si susseguono regolarmente ogni mezz'ora. Alle 2 del pomeriggio ci sono già 200 fermati e 350 alle 18. Oltre 30 fra jeep, gipponi e camion vengono impiegati nel presidio, nei caroselli e nei rastrellamenti che si intensificano fra le 19.30 e le 20, quando la polizia decide di farla finita. Bloccano tutti gli accessi alla piazza con gas lacrimogeni e cariche a raggiera. I fermati sono centinaia. È buio. Tutte le lampade dell'illuminazione pubblica sono state fatte saltare e, malgrado la durezza delle cariche, i carabinieri picchiano con il fucile tenuto per la canna, noi riusciamo cocciutamente a riconquistare gli spazi persi. Siamo più organizzati, ci muoviamo con rapidità, con fionde, bastoni, catene e sassi. Gli scontri più intensi stanno dall'altra parte della piazza, dove sorgono improvvise barricate. Alle 2 del mattino di martedì 10 luglio la polizia ripete per la terza volta la manovra di accerchiamento-rastrellamento con centinaia di agenti. Questa volta l'azione riesce e alle 3 la battaglia di Piazza Statuto è finita. L'insurrezione di Piazza Statuto segna per la prima volta l'emergere nella lotta di classe dell'operaio massa, il nuovo soggetto operaio nato in quei primi anni 60 e che sarà una delle figure sociali protagoniste delle lotte degli anni 70. Sono scarsamente qualificati, erogatori di lavoro semplice privi di ogni qualificazione, immessi in una struttura di lavoro fortemente meccanizzata e fortemente centrata sulla catena di montaggio. È cresciuta silenziosamente all'interno della fabbrica e non aveva fino ad allora preso la parola né con linguaggio sindacale né per comunicare alla città la propria esistenza. Erano lavoratori invisibili, o meglio, visibili solo nella forma dell'immigrato, visibili a Porta Palazzo, nei crocchi che si formavano la domenica, visibili a Porta Nuova, quando arrivavano con la valigia di cartone. Era questo il soggetto che invadeva ora la scena urbana e la invadeva nell'unica forma che riconosceva, quella della rivolta. Ed ora ascoltiamoci un'altra canzone, Mio caro padrone. Circolare a tutte le fabbriche del mondo, siano esse per azioni o SRL o come vi pare. Commendatore illustre, le scrivo la presente per renderle noto un fatto increscioso per lei. Per farle presente che il giorno 21 del mese corrente abbiamo deciso di farla finita con lei. Mio caro padrone, domani ti sparo, farò di tua pelle sapon di somaro, ti stacco la testa che è lucida e tonda, così finalmente imparo il bowling, miei cari compagni, perché quelle facce, ho detto qualcosa che un po' vi dispiace, se forzo è ceduto non fateci caso, 20 anni di rabbia fan parlare così, pensate che bello il giorno 21, padroni son tanti e padrone nessuno, pensate che bello sarà. Ma prima ti inchiodo la lingua al palato, ti faccio ingoiare un pitone salato, e con quei tuoi occhi porcini e cretini, alla mia ragazza farò gli orecchini. Compagni, sia chiaro che il giorno 21, migliore vendetta sia proprio il perdono, e allora saremo più grandi e più forti, se tutti i rancori saranno sepolti, però... Chi mi pagherà la gioia di vederti star lì appeso, grosso grasso unto e obeso, proprio come un baccalà? Chi mi pagherà la gioia di vedere le tue mogli, tutte piene di cordogli, pianger solo il venerdì? Che ti importa se ti strippo, se ti importa accendi un cero, te lo spengo tutto intero dentro il naso, tutto intero, dentro il naso, tutto intero, dentro il naso, tutto intero. Nel 1961 a Torino per la prima volta gli immigrati provenienti dal meridione superano quelli provenienti dal resto del nord e del centro Italia. I meridionali a Torino provengono in massima parte da paesi di campagna, dove la disoccupazione, la sottoccupazione, i salari infimi, i soprusi dei padroni, il desiderio di una vita diversa li spingono all'esodo. Una volta arrivati a Torino è molto difficile trovare casa. La soluzione più normale per una famiglia fino a qualche anno fa è stata quella della soffitta nel centro, nella zona di Porta Palazzo, via Po e zone limitrofe, e delle vecchie case nei quartieri periferici come Regio Parco, Lucento e la Barriera di Milano. Ma il centro è ormai pieno come nuovo, le soffitte sono esaurite, anche pagando affitti molto cari, e sono sempre buchi umidi e malsani, dove l'inverno si gela ed estate si brucia. Gli uomini e i giovani soli invece trovano alloggio in locande e pensioni, dove pagano a caro prezzo vitto e alloggio, e tanti altri abitano presso famiglie che sistemano in una stanza libera 6-8 brandine. La classe operaia per la prima volta era divisa tra operai specializzati e operai non specializzati. I primi, per quanto sfruttati, partecipi, anche se solo in parte, del boom economico. I secondi esclusi dal miraggio della crescita e gettati nelle baraccopoli delle città industriali del nord Italia. Ma a scioperare si ritrovarono tutti insieme e con la stessa forza e convinzione. Poi, negli anni seguenti, il numero degli operai specializzati è diventato sempre minore, mentre nelle grandi fabbriche del nord sempre maggiore è diventata la percentuale dell'operaio massa, l'operaio della catena di montaggio, l'operaio senza una qualificazione determinata. Partirà da questi fatti la storia che condurrà all'autunno caldo e all'intensa stagione di lotte degli anni 70. Per chi volesse approfondire consigliamo la lettura di questi libri, di Dario Lanzardo, La rivolta di Piazza Statuto, Torino, luglio 1962, di Claudio Bolognini, I giorni della rivolta, quelli di Piazza Statuto, di Renzo Del Carria, il quinto volume di Proletari senza rivoluzione, di Sante Notar Nicola, L'evasione impossibile. Concludiamo così questa puntata di Gioia e Rivoluzione, ma anche Sconfitte. Alla prossima!